a casa la richiedevano, io non li ho mai conosciuti, perché io ho conosciuto questo geometra, era lui che mi portava tutto, fammela così, fammela colà, e io glielo facevo così, con la disposizione delle stanze come mi diceva lui, e ciccia. E dunque poi lui veniva e dice: ma è a montaggio, guarda, io se hai altre persone, perché io non posso abbandonare la falegnameria per venire lì a montare la casa, io te li faccio, però va bene, non c'è problema, fammi la casa come ti dico io, e poi a portarmela via, io vengo qua, ti lascio l'assegno e mi porto via la casa. Sì, ma a me mi va benissimo, anzi mi andava meglio così, io non dovevo muovermi da falegnameria, per cui ero più che contento così. Franco, ma dove ti sei messo? In FM ti sei messo? Perché sei uscito come quando in FM? Guarda, adesso se va bene. Adesso va benissimo. Poco fa forse ti sei spostato in FM, se ti accorgi. Una sopportata, ho toccato, non ce l'ho accorto. Va bene, dai, giù, ci sentiamo dopo, ci sentiamo. Se devo scendere giù. Ok, fra, a dopo allora, dai. Adesso mi continuo questa prolunghetta, basta con lo spinotto e ciccia, vabbè. Ciao fra, a dopo, è stato un piacere ascoltarti, ciao ciao. Ciao fra, ciao ciao. C'è qualcuno qua? Natale! Oh! Ciao Natale! Sai che sto uscendo? Ehi, allora male! Ok, no, perché ho messo lo spinotto in questo spettone. Sì, anche io stavo facendo queste cose qui stamattina, Ok, adesso ne ho un altro anche da fare, dai. Adesso devo saldare l'altro, uno l'ho già fatto, adesso devo fare un altro spettone. Ehi, cappa. La radio è buona, sì? Sì, signore. Ok, va bene, dai. Poco fa c'era Franco di Sorso, abbiamo fatto una chiacchierata, ma poi lui ha dovuto chiudere giustamente perché aveva cosa da fare, allora ci siamo salutati e ciccia. Stamattina mi sono salite le stazionarie, adesso sono tornate normali. O è leva? Ma sicuramente è l'acqua, sicuramente Natalia è l'acqua, guarda. Magari adesso si è asciugata e adesso va bene. Ecco, forse è quella. Non stavo ascoltando, stavo facendo roba e quindi non ero all'ascolto, quindi non vi ho potuto sentire. Ok, vabbè. Ascolta, adesso sto aumentando appena il volume. Adesso è a 7, troppo forte così. No, va bene anche così, dai. Se lo metti a 5 va benissimo. Però anche a 7 va bene. Non è che distorci. Allora faccio a 6, dai. Fra il 5 e il 7, a 6 va bene così. Sì, signore, va benissimo. Non si nota nessun difetto. Ok, bene così. Vabbè, sentirai forse l'alimentatore che c'è la ventola vicino, ma comunque questo è un altro discorso, dai. Oh, la voce si sente chiara, di lusso. Va benissimo. io perlomeno non lo sento, a meno che non ci metto proprio l'orecchio per sentire le ventole. Ok, no, adesso in questo momento l'ho staccata, dai, mi ti lascio solo la portante e così mi dici com'è. Vai. Di lusso, anda bene. Meglio così, anche tu stai andando benissimo. Perciò niente da dire, molto molto bene. Cappa, e stamattina mi sei guastato questo qui, non usciva più. Lo sai, sono cose che purtroppo possono succedere, sai, a forza di tirare il filo, eccetera, può succedere, certo che può succedere, ma comunque, già non sappiamo rimediare il problema. Ah, quello è poco ma sicuro. È che c'ho la macchina troppo lontano, stava piovendo, cosa vuoi fare? Non ci sono potuto andare perché è troppo lontana a prenderla, se no già mi servivano dei coccodrillini per aggiustarmi quell'affare per mantenere i fili. Poi mi serviva uno spinotto TV da attaccare a quella penna. E così gli facevo lo spezzone per attaccarlo all'antenna. Ho capito, sì. Sono utili, quelle pinzettine sono utili. Io ne sto usando una adesso, un momento fa, dai, lo stavo utilizzando proprio per mantenermi lo spinotto e va benissimo, perché lo metti nella pinzetta, rimane fermo, tu appoggi il saldatore e saldi e sei tranquillo. E glieli voglio cambiare perché sono rovinati quelli che ho io. Devo andare a buscarmeli e mi servono anche per i contatti, per fare, tanto ce l'ho dei puntali e ne taglio rugo, che si ripongo il coccodrillino a disabbatti, poi ne faccio uno con due coccodrillini per avere i contatti. Ok, Natali, ma io mi voglio comprare, sai cosa? Un nuovo saldatore, di quelli istantanei però, come una volta, che c'è la luce anche. Appena che schiacci, pochi secondi ed è già caldo. A me questi saldatori così a punta, a penna, come vendono oggi, non mi piace, manco così di là. Intanto mi devi aspettare a quando scaldano, eccetera. Invece quella là schiacci istantaneamente e stai saldando. Io sono abituato così. Ce l'ho uno, però non trovo più le punte. Non trovo più le punte adatte alla sua misura. Anche perché è un saldatore molto antico. Tanto lo voglio comprare nuovo. L'ho visto sul computer. 49 euro mi sembra, una cosa così. Me lo faccio arrivare e basta. Da 100 watt. E io me le facevo col filo di rame rigido, le punte per quel saldatore, non me le facevo io. E se non riesco a trovare un rame della stessa dimensione, perché le devo entrare dentro i mossetti del saldatore, no? Ma se non sono di misura, non possono andare bene, perché c'è la ghiera, come stringi, man mano che stringi anche il filo del rame. Ma non sono riuscito a trovare un pezzo di filo di rame così, non lo so se forse va bene quello dell'H1000, forse va bene quello, non lo so, perché quello lì è rigido e dovrebbe andare bene, però non so se va bene come misura dentro, per entrare dentro al saldatore, perché quello è il problema. Guardi come la punta che hai e li vai a misura, io le facevo così, si rientravo, picciavo il grilletto e saliva subito. Lo so, è così che vuole, infatti, vuole del rame per andare bene, la migliore punta è quella del rame, certo, ma il fatto che li vendono anche queste punte, ma cosa faccio? Mi faccio arrivare le punte dal continente? Ma dai, a Sassari non si trovano, per cui è ridicolo anche ordinarle, a meno che uno non debba comprare altre cose, allora ce le fai mettere in mezzo e va bene, ma è anche una vergogna, a Sassari non si trova niente di questo. E a me lo dici, ma anche i saldatori quelli lì si troveranno più. Belle sono quelle stazioni saldanti che scaldano subito, perché tu gli metti la temperatura e salda subito lo stesso la stazione saldante. Ci sono che fanno con lo stilo c'è l'aria calda pure. Fanno due cose in uno. Lo so, la tariffa ci sono quelle, ma lo sai cos'è? Quelle stazioni così hanno sempre la punta Appennino, hanno. Cioè, siccome con la punta lì è infilata dentro la resistenza praticamente, all'interno si ossidano e non scaldano più. Cioè scaldano sì, ma deve stare sempre pulendo, ma non mi piace. Quando vai in Sant'Anio schiacci il pulsante e in 3 secondi stai già saldando, proprio 3 secondi, veramente, non scherzando. È come quello che ho, però ripeto, la punta, ma se riesco a trovare un pezzo, pure voglio andare da Marcello, Marcello ne avrà di filo così, di rame, di diverse dimensioni. Io penso di sì. Però vabbè, se ce l'ha, ti ne dagli un pezzo di filo, di rame e ti nate, e ti rivari un po' di punti. Infatti, oppure vado da Bricco, come se c'è filo rigido, dico pareggio va di 1 metro e poi faccio le punte che mi servono, non è un problema, con 1 metro mi dici di 50 di punti. E infatti, ti porti la misura di quella vecchia e così trovi il filo adatto. Infatti quello. Oppure mi porto un paio di forbici, anzi ci sono anche lì. Lo spello, la punta di quel filo che c'è tanto in esposizione, la bricome, lo spello e lo provo direttamente dentro il soldatore. Mi porto anche il soldatore, tanto il soldatore è vecchio, non mi posso dire niente, anzi quando entro mi faccio mettere il bollino, perché così no, perché lì da bricome, quando entri con 1 metro ad esempio, o qualsiasi cosa, ti fai mettere il bollino e sai che quello è tuo e non ti posso dire niente. Se no ti possono accusare magari che il saldatore è suo, che il metro è suo, insomma, che il materiale lo stai portando fuori e roba loro. Invece no, c'è la guardia all'ingresso, ti dà il bollino, te lo attacca a quello che, come ho fatto altre volte, insomma, ecco, io quando vado col metro ad esempio, no, se devo prendere la misura di una cosa, di un pezzo di legno, qualsiasi cosa, mi porto il metro, appena entro mettimi il bollino, capito? Siccome il metro mio è nuovo, io mi porto sempre un metro nuovo, almeno il metro vicino non mi è mai piaciuto. E dunque, per evitare che ti possano accusare che ti hai volato, allora loro te lo fai bollare a loro, capito? Ma ti conviene solo portare la punta. Ti porti la punta, misuri, se è di quello anche più grossa è meglio pure, se è più grossa della punta normale. Lubigli, ci rubo un idrento, lubizza, rosaggiatori e ti fa la misura iuscia. Anche così. Vabbè, facciamo così, dai. E vediamo se riesco a recuperarlo. Se no me lo compare giù lungo, 49 euro più trasporto, non me la fatti nulla, me lo compro e basta, me lo faccio arrivare, tanto è inutile andare a Fusano alla GBC, sono due negozi, due molti, no, non hanno niente, per carità. Oi. E infatti, qualsiasi cosa che cerchi non nani, e se l'anni di rapazzo in bagaglio, usare guru bevaro. Infatti è proprio così, in effetti è così. Ma comunque, staremo a vedere, dai. Bravo, dai, Natali, scusami, adesso continuo, visto che il saldatore è ancora caldo, continuo, metto e faccio l'altra espressione, dai, ci sentiamo dopo, casomai, ok? Vabbè che già da una manco 20, anzi, meno 19 addirittura, se che siamo pure vicino allo branzo, tanto per cambiare. Infatti. Non a meno 20, siamo infatti siamo vicini al pranzo, anche io chiudo e vediamo cosa si può fare per mangiare. Ciao. Ok, ciao Natali, ciao. Ciao Concetti, ci sentiamo. Buon pranzo a tutti e due, ciao. Ciao, ciao. Saluti da Concetti. Grazie, ricambiate, ciao. Prova, 1, 2, 3, prova radio, prova. prova radio, 1, 2, 3, prova radio, prova, prova.